Prima edizione. Giovedì 29 settembre, ancora una buona giornata da Anna Miglioratti. È il momento di cominciare con Prima edizione. E cominciamo con uno sguardo ai giornali, anche perché questa mattina riservano molte sorprese, a cominciare dal Corriere della Sera, che riporta una notizia che non troverete sugli altri quotidiani: una lettera segreta della Banca Centrale Europea all'Italia, una lettera spedita. Così scrive il Corriere della Sera in apertura il 5 agosto scorso al governo italiano dal presidente della Banca Centrale Europea Jean-Claude Trichet e dal suo successore in pectore Mario Draghi. Nella lettera, strettamente confidenziale, scrive il Corriere della Sera, la Banca Centrale Europea chiede all'Italia liberalizzazioni, flessibilità del lavoro, misure sulle pensioni. Siamo sempre più sotto osservazione e lo eravamo da luglio, dal 5 di luglio, scrive oggi il Corriere della Sera. Corriere della Sera, che a centro pagina titola la vitola "Il Premier mi disse di aiutare i tarantini". L'intervista è quella di Mentana alla vitola ieri sera sulla 7, noi la sentiremo tra poco, ma pubblica anche sempre il Corriere della Sera una lettera molto interessante questa mattina, una lettera di un sindaco, del sindaco di Macherio, un paese alle porte di Milano dov'è una delle ville di Silvio Berlusconi. "Io sindaco leghista tradito dal mio partito", comincia così: "Caro direttore, sono un sindaco leghista che si è stancato di mandar giù bocconi a mare e che si è accorto di come sia terrificante oggi il potere della Lega. Vengo da una militanza ventennale, faccio il sindaco per 920 euro netti al mese. Raccolgo ogni giorno le lamentele dei cittadini ogni momento che cammino per strada o vado al bar", e poi prosegue la lettera del sindaco di Macherio sulla prima pagina del Corriere della Sera. Il Messaggero, apertura in questo caso Banca Italia, governo diviso, la notizia è quella delle tensioni all'interno del governo per nominare il successore di Mario Draghi, ma a centropagina Il Messaggero ha un'intervista al ministro della giustizia Nitto Palma. Dice al Messaggero: "Subito le intercettazioni, bisogna fermare quelle a strascico. Sulle intercettazioni è il momento di fare qualcosa, non è possibile che finiscano sui giornali conversazioni che riguardano la vita privata delle persone indagati e non". Così l'intervista al Messaggero, e a fianco anche qui la notizia di La Vitola. La Repubblica: Berlusconi, inchiesta sui magistrati, salvo il ministro accusato di mafia. Così l'apertura della Repubblica. Pagina Europa, giro di vite sui debiti degli stati. Il Sole 24 Ore: Banca Italia, il Premier frena, spunta l'ipotesi Ternar, Saccomanni resta in pole, Draghi va al colle da Berlusconi. Così il Sole 24 Ore. A centro pagina Matteoli, contestato dai costruttori, imprese e banche incontrano Tremonti e Letta, preoccupa la crescita a costo zero. Così scrive quest'oggi il Sole 24 Ore. Dalla Stampa, che apre anch'essa su Banca Italia con il veto di Bossi, un'altra segnalazione invece riguarda l'AIDS. Il vaccino della speranza indurrebbe una risposta immune al virus nel 90% dei casi e non causerebbe gravi effetti collaterali. È stato testato in Spagna, così scrive la Stampa quest'oggi. Solo uno sguardo ai giornali, come sempre l'appuntamento con una più ampia rassegna stampa alle 7:20 con Alessandro Milan. Ma vi avevamo anticipato, andremo anche a sentire questa mattina cosa è successo ieri sera in TV e cosa è successo in particolare sulla 7 con la nuova trasmissione di Enrico Mentana, Bersaglio Mobile. Il personaggio principale dell'avvio di trasmissione di Mentana è stato Walter La Vitola, il faccendiere al centro dell'inchiesta Tarantini, con l'accusa di aver ricattato Silvio Berlusconi insieme appunto a Tarantini e alla moglie. Le accuse ora potrebbero cambiare, potrebbe essere lo stesso Berlusconi ad essere indagato invece per aver indotto a mentire. Fatto sta che La Vitola, che è latitante a Panama, ieri sera ha parlato in diretta TV. E cosa ha detto? Innanzitutto ha detto che ci sarebbe una telefonata che lo scagiona, e ha commentato quei 500.000 euro che sarebbero andato a Tarantini. Una delle accuse, una delle espressioni pubblicate sui giornali che lo riguardano in questi giorni era anche riferita a Berlusconi: finiremo per tenerlo con le spalle al muro, lo metteremo alle strette. Allora, La Vitola ha spiegato ieri sera queste espressioni dal suo punto di vista e ha descritto così i tarantini. che i Tarantini, che non sono i mostri che sono stati disegnati, a mio avviso sono dei ragazzi viziati, sperperoni e che non avevano il senso della realtà, come emerge da molte intercettazioni, da molti discorsi che io facevo con loro, essendo io erroneamente convinto, tra l'altro, che queste telefonate su utenze estere non potessero essere intercettate, quindi quanto mai spontanee, come dice la stessa procura. E quindi, siccome però questi due erano nei miei confronti pressanti in un modo esasperante, basterebbe leggere, se lo volete lo facciamo, alcune delle intercettazioni, ma credo voi le abbiate fatte, e le loro principali ossessioni erano tre. Così introduciamo uno degli argomenti che farà curiosità. La prima, in assoluto, vedere il Presidente del Consiglio in più occasioni possibili. La seconda, riuscire a far sì che un loro amico, un imprenditore, a mio avviso pulito, che ho visto una volta, anzi due volte, Pino Settani, potesse concretizzare l'ottenimento di un lavoro con una delle società in qualche modo collegate a Leni, non so bene neanche di quale si trattasse. La terza cosa, ovviamente, era la necessità di avere soldi per le esigenze più disparate. Allora, nell'ambito di questa cosa, in questo caso in cui parlavo di metterlo con le spalle al muro, io, se non ricordo male, dicevo a Nicola Tarantini: guarda, vedrai che questa storia finirà che, se non si fa, io lo dovrò mettere con le spalle al muro in senso metaforico e dirgli che, se non si fa sta cosa e loro si mettono, loro, dicevo, i Tarantini, si mettono a far storie, mi si creano problemi anche a me, perché io li sto aiutando senza averne nessun vantaggio, ci manca solo che me li faccio nemici. Questa la versione di La Vitola, che ha spiegato anche un altro punto importante in tutta questa vicenza, da vale a dire la consulenza a Finmeccanica, per la quale si parla di cifre stratosferiche. Questa la versione di La Vitola. Ho parlato sì con il direttore commerciale di Finmeccanica, il quale mi ha proposto lui un contratto di consulenza. Scherzando in più di un'occasione col direttore commerciale, è venuto fuori il fatto che lui mi avesse, sì, potesse essere, ma molte volte scherzando anche alla presenza di altre persone, lui si vantava di avermi, ripeto, fatemi passare il termine, fregato, perché mi ha fatto un contratto di 30.000 euro. Pensate che la cifra l'ho proposta io, perché quando lui mi disse ok, ti facciamo un contratto, io pensavo scherzasse, e lui mi ha detto quanto vuoi. Io, pensando che già fosse uno sproposito, gli ho detto dammi 30.000 euro l'anno e mi rimborsi le spese. Lui ha immediatamente mi ha stretto la mano e mi ha fatto affare fatto, e dopodiché mi sono reso conto che c'erano centinaia di migliaia di euro di possibili consulenze. Spiegazioni per tutto ieri sera dalla Vitola a Mentana, ma prima di concludere l'intervista però ha ribadito intanto che resta Panama. Ho intenzione di rimanere latitante. Dove si trova? È al riparo dagli accordi di estradizione, sicuro? È ovvio. Quindi vede che amici potenti. Ho intenzione di rimanere latitante finché non ci sarà, e comunque non è che mi interessa più di tanto. Io sono sicuro che, come si stanno dimostrando i fatti, la giustizia mi darà ragione, e quindi ogni giorno di libertà che guadagno è un giorno in meno che faccio in carcere. E le dico con franchezza, siccome io, come le ribadivo prima, faccio il pescatore del pescivendolo, ed in queste aree, grazie a Dio, di pesci ce ne sono tanti nell'acqua, io sto cercando di fare in modo, senza far nulla di illecito, forse si scoprirà che pesco con le leve di frodo, sto cercando di fare in modo che quando tutta sta roba finirà avrò ancora un lavoro, e quindi non farò la fine di Tarantini. Così da Enrico Mentana ieri sera sulla 7, Walter La Vitola. L'inchiesta Tarantini, naturalmente la parola aspetta ai magistrati, vedremo che succederà nei prossimi giorni. Non dimentichiamo lo sguardo ai siti esteri come ogni mattina, brevemente anche quest'oggi. Wall Street Journal: i tedeschi riconsiderano i legami con l'Europa, apre così questa mattina il Wall Street Journal versione online. La vicenda ovviamente è quello del voto molto importante oggi al Parlamento tedesco per il futuro dell'euro sui prestiti alla Grecia. Gli ex alleati della Merkel, scrive il Wall Street Journal, sono decisi a votare contro l'aumento del Fondo Europeo di Salvataggio perché sottolineano un cambiamento tra alcuni tedeschi sul loro ruolo in Europa, e il punto è proprio questo. Il Der Spiegel titola non a caso: la Merkel spera in un cambiamento di umore. Nel futuro della Grecia, il futuro dell'euro passano dall'umore dei tedeschi, che all'Europa cominciano a crederci un po' meno. prima edizione. Alle 6.33 minuti ci aspetta Italia in controluce. Italia in controluce. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchessi. Antonio Martino è responsabile per l'Agenzia delle Entrate di una nuova task force dedicata agli illeciti fiscali internazionali. Martino in sostanza è il segugio che batte le piste percorse dai grandi evasori. Lo ha intervistato per noi Valentina Furlanetto. Parliamo di una forma di evasione fiscale, quella perpetrata appunto all'estero attraverso capitali occultamente detenuti all'estero e che sono poi quasi sempre fittiziamente intestate delle società offshore. Costituiscono dei fondi indichiarabili perché sono essi stessi il frutto di attività di evasione fiscale o, come dicevo, purtroppo talvolta sono il prezzo, il profitto, il prodotto di altri reati ben più gravi. Qualche volta costituiscono proprio la provvista monetaria per il pagamento appunto di quei servizi illeciti, di quella corruzione che è necessaria per accaparrarsi alcune forniture. Sono fondi neri, insomma. Sono fondi neri a tutti gli effetti. Lavorate in collegamento chiaramente con la Guardia di Finanza, ma anche, mi pare di capire, con l'OCSE. Certo, la risposta a un problema così complesso non può che essere sistematica, cioè deve coinvolgere tutti quegli organi nazionali che sono deputati a contrastare, oltre l'evasione fiscale, anche il riciclaggio e la corruzione. L'OCSE ha stilato una lista di paradisi fiscali, tra questi c'è anche la Svizzera. Si fa un gran parlare di capitali italiani detenuti in Svizzera, soprattutto negli ultimi tempi. Certo, vengono stimati in diversi miliardi di euro e appunto l'OCSE individua i cosiddetti paradisi fiscali sulla scorta di alcuni parametri. Uno di questi, il più importante, è il grado di collaborazione in materia fiscale che fornisce quello Stato e in questo caso la Svizzera ne fornisce ben poco, per cui è inserita in questa blacklist. Lei, prima di essere a capo di questa struttura dell'Agenzia delle Entrate, è stato nella Guardia di Finanza, ha collaborato con la Procura di Milano, quindi con i PM Boccassini e Greco, per molti anni. E quanto l'ha aiutata questa esperienza, diciamo, di intelligence presso la Procura di Milano con il suo nuovo lavoro? Direi che questa esperienza è stata fondamentale. Comunque la collaborazione del mio ufficio con la Procura di Milano, come con tutte le altre procure, attraverso sempre con la Guardia di Finanza, continua, è costante. Ed è stato lei, tra l'altro, nel 2003 invece ad arrestare Callisto Tanzi, è così? Sì, ho fatto quello che chiunque al mio posto avrebbe dovuto fare o avrebbe fatto, ecco. Certamente ci ho messo del mio, ma il merito va all'istituzione. Prima edizione di Italia in controluce, oggi 13.30, Radio 24. Le 6.36 minuti, ancora buona giornata da Anna Migliorati. Prima edizione ci porta questa mattina a Parma. Che è successo? A fine giugno gli arresti per presunte tangenti sulla manutenzione del verde pubblico, 11 persone finite in carcere, tra loro 3 dirigenti comunali. All'inizio di questa settimana, ve l'abbiamo raccontato anche noi, altre 4 persone in carcere, una delle quali Giovanni Paolo Bernini faceva l'assessore alla scuola. L'accusa sempre quella di tangenti sugli appalti, in questo caso dei pasti ai bambini. Ebbene, Pietro Vignali, sindaco di una giunta civica sostenuta dal centrodestra, ha resistito al primo tornado nonostante le richieste di dimissioni arrivate da decine di manifestazioni di indignati di Parma e nonostante lo sfaldamento della sua maggioranza, ma non ha retto questa volta alla seconda. Ieri sera si è dimesso. Allora, cerchiamo di capire che sta succedendo a Parma e cominciamo a parlarne con un'intervista di Raffaella Calandra ieri sera, pochi minuti dopo l'annuncio delle dimissioni di Vignali. Raffaella Calandra ha sentito Elvio Ubaldi, precedente sindaco di Parma, sempre di centrodestra, e colui che aveva scelto Vignali come successore. La risposta opposto ad una richiesta della città. Secondo lei sono dimissioni che sono arrivate comunque tardi? Sì. Si è pentito di aver sostenuto Vignali o no? Sì, anche se non avevo molte altre alternative. È, diciamo, risaputo che dopo averlo lei stesso indicato come suo successore, i vostri rapporti non erano più buoni. Come mai? Vedevo che vi era una grande protervia nel volere, ad esempio, opere nuove che portavano ad un disfacimento progressivo. Un aumento del debito hanno provocato dei disastri. E lei che idea si è fatto del perché di tutto questo? Il rapporto con il mondo imprenditoriale non è mai stato un rapporto molto chiaro, molto trasparente. Queste inchieste, lo schema ripetuto in tre aspetti diversi, parla di accordi tra funzionari pubblici, politici, una rete clientelare. Prima i debiti erano molto contenuti perché avevamo 70-80 milioni di debiti, poi all'improvviso c'è stata l'esplosione, secondo me un po' da attribuire alla volontà di emergere, dall'altro evidentemente si era innescato un meccanismo che poi ha portato al disastro. E io saluto il capogruppo del PD a Parma, Giorgio Pagliari, colui che ha portato in procura alla Corte dei Conti tanti esposti sulle spese del Comune. Buongiorno. Buongiorno. La lettera ieri sera con cui Vignali dice addio è questa: se avessi compiuto una scelta nel mio interesse personale mi sarei dimesso già a giugno. Mi sarei risparmiato mesi di difficoltà e di attacchi personali, non mi sono dimesso perché dovevo portare a termine opere fondamentali. Opere sui quali conti non vi quadrava qualcosa, è così? Sì, non quadravano assolutamente i conti, non eravamo davanti ad opere fondamentali, anche perché il concetto di opera fondamentale è un concetto molto relativo. Qui abbiamo assistito in molti passaggi alla vestizione di interessi privati come interessi pubblici, all'invenzione di opere. Fatto salvo che saranno le indagini, i magistrati ad accertare tutto quanto, però sì, questo. Questo, ma la mia è un'analisi dal punto di vista politico, chiaramente. Cioè in questa città il centrodestra si è mosso sulla logica delle cosiddette grandi opere, ribaltiamo la città, e i risultati poi si vedono emblematico è il Ponte a Nord. Sono opere che rispetto alle esigenze della città spesso non avevano rispondenza, sono opere che non erano misurate sulle dimensioni della città, sono opere che sono state previste senza che ci fosse la necessaria copertura finanziaria. Le inchieste per ora, ricordiamo, riguardano per la verità Verde Pubblico e Mense Asili, però voi dite ci sono altre spese da chiarire, potrebbe venire fuori altro, avete il sospetto di altro? Guardi, da quella che abbiamo la valutazione noi nell'ambito delle società partecipate, ma anche nell'ambito della gestione del comune, dal punto di vista urbanistico, dal punto di vista della gestione del personale, ci sono zone d'ombra che ci auguriamo che la magistratura voglia valutare, perché a questo punto l'azione di purificazione della città è un'azione necessaria, un'azione sulla quale non deve fermarsi poi la politica, perché a questo punto la politica a Parma ha bisogno di offrire alla città un rilancio, una ripartenza immediata. Abbiamo un sistema socio-economico bloccato sia per le ragioni di natura internazionale, ma anche per le ragioni legate a questa gestione. Abbiamo un sistema che si è caratterizzato in quest'ultima fase per opere che sono state commissionate e non sono pagate, ci sono pagamenti bloccati da 18 mesi, ci sono tutte le imprese, c'è cioè il mondo produttivo che è in sofferenza e in forte critica nei confronti del Comune proprio perché non ci sono stati questi pagamenti. Pagliari, in questi mesi si sono viste proteste a Parma, la tensione era palpabile in città, però in piazza, davanti al comune, ad ogni consiglio comunale, c'era più il popolo viola che il PD di Parma. Guardi, io credo che la posizione del PD sia stata davvero testimonianza sul piano dell'impegno nei confronti della città, dal lavoro che è stato fatto dal gruppo consigliare e in alcuni passaggi dal partito stesso. Voglio ricordare che insieme alle altre opposizioni, ma sono 4 anni che stiamo martellando, e in quest'ultimo anno sulle società partecipate abbiamo portato le dimissioni di 2 presidenti e abbiamo contribuito certamente a mettere la procura allerta, e se quello che è successo ieri sera ha un nostro, credo obiettivamente, un nostro contributo. Io vorrei sottolineare peraltro che l'indignazione di città non è l'indignazione solo degli indignados. Gli indignados erano la punta dell'iceberg, perché io, andando per strada e frequentando alla mattina il bar per la colazione, mi sono trovato sia persone che mi hanno contattato, mi sono trovato a sentire altre persone, e l'indignazione è diffusissima. Era diffusa, tant'è che è stato lo stesso PDL, peraltro, ieri sera, diciamolo, ad abbandonare Vignali, e quindi si è arrivati alle dimissioni. Ora cosa da questo punto di vista è una bella facciata osta, eh? Possiamo andare. Cosa aspetta ora Parma? Adesso a Parma ha adesso 2 orizzonti davanti: l'orizzonte del commissario, che deve avviare un monitoraggio della situazione per avere i conti veri e reali, perché questi non sono mai stati offerti da questa maggioranza, che ha sempre coperto con giochetti contabili o con il travaso dei debiti dalle società, dal comune alle società e dalle società al comune, la reale situazione. E dall'altro deve partire immediatamente una riflessione seria e profonda di tutta la città in tutte le sue componenti, per garantire una ripartenza vera in un contesto di serio e sostanziale rinnovamento. Insomma, c'è un tessuto da ricostruire, un tessuto politico. Fare davvero per se stessa, in funzione di se stessa, una riflessione, ripeto, serena ma molto approfondita. Perché senza una riflessione sull'esperienza che si è chiusa, su questa esperienza civico-polista che si è chiusa, un'esperienza che è cominciata nel 98, è difficile ripartire. Una ripartenza, soprattutto è difficile ripartire nel contesto indispensabile di un rinnovamento reale e sostanziale. Grazie Giorgio Pagliari, capogruppo del PD a Parma, buona giornata. Prima del traffico saluto il nostro già prossimo ospite, Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore a Bruxelles, per tanti anni è stato in Germania, i nostri ascoltatori lo conoscono bene, buongiorno Beda. Buongiorno. Prima edizione. Prima edizione vi porta in Europa davvero, perché oggi è una giornata importante. Beda Romano, ancora buona giornata. La questione di oggi è questa: oggi ci sarà il voto al Bundestag, il Parlamento tedesco, sul prestito deciso a luglio per la Grecia. Il passaggio, abbiamo detto anche in questi giorni, appare sostanzialmente scontato. I numeri con cui passerà però non sono secondari, perché dicevamo, tutta questa vicenda, oltre che a un sì per la Grecia, che ha grossissimi problemi perché già gli stipendi di ottobre potrebbero non riuscire a pagarli, è anche una questione di immagine che la Germania e l'Europa daranno al mondo a difesa dell'euro. È così? Sì, beh, sappiamo che il voto passerà evidentemente, perché voteranno a favore circa l'80% dei deputati, più o meno. Il problema è capire se la maggioranza democristiana liberale voterà compatta e se sarà presente al momento del voto. Abbiamo trascorso l'ultimo mese e mezzo assistendo in Germania a un tira e molla spaventoso tra i membri della maggioranza e il capo del governo. Il timore di Angela Merkel è di vedere assottigliarsi la propria maggioranza. Ci sono una ventina di deputati, che poi alla fine è lo scarto che c'è tra maggioranza e opposizione, che hanno minacciato di votare contro. Allora, se ciò dovesse succedere, in altre parole, se questo provvedimento dovesse passare alla Camera bassa del Parlamento con l'aiuto indispensabile dei socialdemocratici e dei verdi, ebbene il danno di immagine per il governo sarebbe molto molto forte. e ci si potrebbe chiedere quale sarebbe il destino del cancelliere. Io ho l'impressione che, nonostante i molti mal di pancia delle ultime settimane, la maggioranza resisterà e credo quindi che il provvedimento passerà senza troppi problemi. E una però delle è un questioni momento cruciale per l'Europa. Esatto, perché una delle questioni di questi giorni è che i mal di pancia dei singoli paesi europei pesano anche per tutti gli altri, a maggior ragione per la Germania. Non c'è dubbio, ormai da mesi direi la politica interna tedesca sta segnando la storia dell'Europa e il destino della Grecia in questo particolare momento. Perché tanta paura da parte dei tedeschi, di una parte dei tedeschi, ad aiutare la Grecia? Ci sono motivi di primo ordine e ci sono motivi invece più psicologici. Senz'altro una fetta importante della maggioranza, della classe politica in generale, del paese, teme di dover pagare di tasca propria gli errori di politica economica commessi dai paesi oggi in crisi, la Grecia, l'Irlanda, il Portogallo e via di seguito. Credo poi più in generale che la Germania aveva affrontato l'unione monetaria in modo completamente diverso. Le era stato detto che l'unione monetaria sarebbe stata un'unione con una valuta unica ma con dei bilanci nazionali e che tutti i governi avrebbero fatto il loro dovere per mantenere il bilancio sotto controllo. E ora si trova dei problemi dei bilanci degli altri. Esattamente. Ed è difficile da digerire per i tedeschi. Grazie a Beda Romano per essere stato con noi. Grazie, vedremo oggi cosa succederà, perché come ci ha appena spiegato il voto di oggi sarà davvero cruciale per la Germania, ma non solo, soprattutto per l'Europa e per il futuro dell'euro. Alessandro Milan nel frattempo mi ha raggiunto. Eccoci, buongiorno. Buongiorno. Ho due domande da farti, cara. Prego. Anna, la prima è: secondo te qual è la regione italiana in cui ci sono più truffe alle assicurazioni? Sai, quando si inventano gli incidenti, queste cose qui. Beh, dobbiamo, se andiamo con avrai droghi fatto anche tu, no, di inventare un incidente a volte? Oddio. No, e comunque neanch'io, non lo dice. Diciamo comunque, no, noi no. È la Puglia. Ecco, guarda, vedi? Oggi c'è scritto sul Corriere della Sera. Tra avrei tirato a caso. Tra l'altro c'è una storia incredibile, per esempio una nonna 85enne che impennava una moto ed è caduta. Questo 85 secondo anni. Sì, oppure quelli che hanno avuto il colpo di frusta in tre su una Smart, dove notoriamente si va in due. Io l'ho avuto, ma l'ho avuto davvero. Sì, no, certo, ma non su una Smart non in sulla tre. Smart in tre. No, non su una Smart in tre. Vabbè, poi vi racconterò anche queste storie un pochino curiose di un dipendente della regione Sicilia che è riuscito a raccogliere ore e ore di straordinari. L'hai vista anche tu, perché spalava la neve a luglio. In Sicilia, A luglio in Sicilia, di neve ce n'è. Di forse neve ce anche n'è, come sulle no? Dolomiti a luglio è difficile, ma in Sicilia insomma è ancora più, insomma è venuto un leggerissimo dubbio a qualcuno che doveva liquidare questi straordinari a questo dipendente. E meno male che a qualcuno è venuto il dubbio, insomma, Alessandro. Ma è Italia anche questa, è Italia, storie di Italia, insomma, della nostra Italia. Storie e altre storie dei giornali, come sempre, alle 7.20 Alessandro Milan. Cosa parlerai poi a 24 mattina? Beh, avremo Antonio Di Pietro alle 8.20, eccolo, quindi lì. Voto dopo Romano, e poi parleremo insomma di questa vicenda del figlio di Totò Riina, che esce dal carcere domenica e rimarrà al nord, a Padova, a vivere. E qualcuno a Padova storce il naso. Vabbè. Non ce lo vuole il figlio di Riina. Vedremo di capire che succede. Grazie, Alessandro Milan. A dopo. Alessandro Longoni, come sempre, resta in regia, così come Carmelo Lauricella. Noi ci sentiamo tra poco con tutte le notizie di GR24. Ancora una buona giornata da Anna Migliorati.